versione di Oscar. Di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta. Qui è la versione di Oscar. Lo so, mancano poche ore oramai alla fine della vigilia e all'inizio di Natale. Quindi abbiamo pensato, siccome si aprono i doni, no? Tra qualche ora i bambini sono felici, tutti quanti voi avete dovuto pensare a tutti i peccati da farvi perdonare con i doni da far trovare sotto l'albero, parliamo di un dono un po' particolare, almeno a mio giudizio, che non faccio testo, però un dono un po' particolare, quello che arriva alle banche socio di Banca d'Italia. Ieri si è tenuta l'assemblea straordinaria della Banca d'Italia, che, lasciandomi senza parole, ma sbaglierò io probabilmente ancora una volta, ha modificato lo statuto della Banca d'Italia sulla linea del decreto legge emanato dal presente governo e ha deciso di farlo senza aspettare l'esame del decreto legge da parte del Parlamento e senza neanche aspettare il parere, peraltro consultivo, ma come capirete non proprio secondario, della Banca Centrale Europea, sapendo pure che la Bundesbank ha delle obiezioni di fondo. Ricordo a tutti, vi potrà sembrare un tema non natalizio, ma il mio giudizio è che c'è un bel dono sotto alle banche socio di Banca d'Italia. Vi ricordo che il capitale della Banca d'Italia era fermo alla valutazione, alla cifra stabilita con la legge bancaria del 36, quindi era l'equivalente di 156.300 milioni. Le banche che nella trasformazione, prima con la privatizzazione delle banche degli anni 90, poi con il consolidamento che si trovano socie di Banca d'Italia, hanno due grandi banche, le due grandi banche italiane che sono oltre il 60% del capitale, cioè Intesa e Unicredit. Il decreto rivaluta il capitale di Banca d'Italia a 7,5 miliardi, una cifra molto alta, più alta di quella della media delle grandi banche centrali europee. Lo fa tenendo conto del fatto che molte di queste banche, quelle che erano più deboli, avevano elevato moltissimo il valore di libro della quota che detenevano, come Carige e MPS, e lo fa con il criterio che però nessuna di loro nel decreto legge potrà avere più del 5% della banca, quindi le due grandi banche che hanno oltre il 60% potranno vendere e cedere la quota eccedentaria, cioè oltre il 50% del totale dell'attuale capitale di 7,5 miliardi della Banca d'Italia, verranno ripagate a questo prezzo, potranno farlo con 2 anni di tempo. Il Parlamento sta pensando a degli emendamenti, ma nel frattempo il voto del Parlamento non c'è stato. La Banca d'Italia può, al fine di evitare che entrino degli azionisti sgraditi, possono entrare azionisti di tutta Europa, banche tedesche e così via, eccetera, eccetera, può attingere essa alle proprie riserve e pagare le banche che volessero disfarsi dell'eccesso di quota. C'è tempo 2 anni per farlo. Il risultato, secondo me, è che oltre il 50% di questi 7,5 miliardi vanno a Unicredit e Intesa. È un bel regalone patrimoniale con un istituto che è pubblico e io non capisco la vera ragione per cui questo dono sotto l'albero è stato fatto alle banche socio di Banca d'Italia. Ammetto di essermi sentito un cretino nel pensarlo, perché nessun grande editorialista quasi in queste settimane ha deciso di sollevare quello che a mio giudizio era uno scandalo. Il più dei giornali si sono allineati e, se vedete per esempio anche i titoli di oggi, trovate interviste del presidente dell'ABI Corrado Patuelli che dice che è un passo verso l'unione bancaria europea, non capisco perché. Trovate il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco che dice così si rafforza l'indipendenza, non capisco perché. Forse sono io che sbaglio nell'avere un giudizio così critico di quello che a me sembra un maxi dono. E allora ho finito di parlare io, perché oggi abbiamo chiamato un esperto vero, un professore universitario, e chiederemo a lui cosa ne pensa di questo, se è un dono o non è un dono alle banche socie sotto l'albero di Natale, patrimonializzandole con ciò che è di tutti noi, perché Banca d'Italia è di tutti noi. E con noi il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, che insegna strategia d'impresa ed economia aziendale alla scuola di direzione aziendale della Bocconi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, professore. Buon pomeriggio e ben trovato, Oscar. Allora, andiamo subito al punto. Ci dice il suo giudizio su questo provvedimento? È un'operazione che andava fatta dal punto di vista della governance. Dal punto di vista economico mi spiace dover concordare con la tua lettura, Oscar, ma effettivamente trattasi di uno patto scellerato per scambiarsi plusvalente con tasse, e questo patto scellerato è fatto dal governo con le principali banche italiane azioniste di Banca d'Italia. Quindi la lettura economica purtroppo è corretta, se ne è accorta molto bene la Bundesbank, la quale si è messa di traverso e a tutt'oggi, 24 di dicembre, a poche ore dall'arrivo di Babbo Natale, non ha dato il parere, diciamo, la luce verde alla definizione dell'operazione, che ricordo aveva due valenze: una economica, cioè generare profitti tassabili per le banche proprietarie di Banca d'Italia; la seconda patrimoniale, cioè quella di costituire patrimonio utilizzabile ai fini degli stress test che la Banca Centrale Europea avrebbe dovuto e farà a partire dai prossimi mesi. Questa seconda parte probabilmente salterà, ma vale la prima, cioè vale la plusvalenza, che in tutta fretta, perché non c'era nessuna urgenza di farlo, se non appunto di far figurare come plusvalenze riconoscibili nel 2013 questo grande regalo che tu correttamente hai definito tale, anche perché il metodo di valutazione di queste quote è un metodo che ha due errori fondamentali: il primo sulla natura, come dire, dell'istituto di diritto pubblico che è Banca d'Italia, sulla quale nessun azionista privato può diciamo pretendere di avere diritto a distribuzione sugli utili, se non quelli statutari. Quindi il metodo di valutazione è un metodo diciamo non corretto, perché è stato usato il dividend discount model, cioè sono stati fondamentalmente calcolati i valori attuali dei dividendi futuri, dando per scontato il diritto dei soci di percepirli, e al più i soci avrebbero avuto diritto a un indennizzo, ecco, essendo un istituto di diritto pubblico Banca d'Italia avrebbe potuto dire: bene signori, nel 1893 qualcuno ha versato l'equivalente di questi 156.000 euro, rivalutiamo quelle quote semplicemente con l'inflazione, con il coefficiente di valutazione monetaria di questi 120 anni, e vi riconosciamo una cifra ragionevolmente compresa fra 1,3 miliardi e 1,5 miliardi, che sono i coefficienti di valutazione possibili. Non si è fatto questo, si è preferito fare un'operazione di rivalutazione anticipata e di riacquisto, perché il riacquisto che cosa fa? Usa riserve di Banca d'Italia per pagare a valutazione nuova, e quindi non la valutazione precedente, a valutazione nuova, azionisti che detevano quote che non hanno peraltro mai pagato di fatto. Quindi sicuramente la tua lettura è una lettura corretta. Che poi, diciamo, la governance di Banca d'Italia meritasse un riassetto, questo non c'è dubbio. Banca d'Italia non poteva continuare nel quadro del sistema europeo a essere posseduta in maniera così dispersa da privati, però continuerà a essere posseduta da privati pur avendo uno statuto più da public company. La verità è che tutto il resto d'Europa, le banche centrali sono di proprietà dello Stato, sono istituto di diritto pubblico di proprietà statale. Non si vede perché noi dovessimo fare una cosa diversa dagli altri. Quello che io non arrivo a capire: esistono, nella molteplice varietà di modelli delle banche centrali del mondo, esistono delle banche centrali in cui ci sono dei soci privati nel capitale. Sono assolutamente minoritari, ma pure esistono. Quello che, forse per ignoranza mia, non esiste è il fatto di consentire ai soci privati di una banca centrale un mercato secondario del trading, per così dire, delle proprie quote, che è quello che di fatto avverrà, visto che devono cedere ciò che eccede il limite per quelle che ne possiedono oltre il limite. Vedremo se poi questo limite sarà 5% o il 3% che si pensa di mettere in Parlamento. Attenti a casa, il 3% diranno che è per limitare ulteriormente i privati, significa semplicemente che sale ulteriormente il dono, ovviamente, a Unicredit e Intesa. È un'ulteriore distribuzione di riserve della Banca d'Italia, detto questo, perché? Come funziona? La Banca d'Italia siamo abituati da decenni a considerarla, non abbiamo l'ENA in Italia, insomma, un punto di eccellenza tecnica, poi si è sporcata le mani con la politica più volte, non so se ci abbia guadagnato o perso, la mia opinione è che ci ha perso, ma come mai sono arrivati a questa determinazione, professore, di dare vita a questo mercato secondario delle quote tra privati europei, addirittura, di cui, a mio, per quanto ne sappia io, non c'è traccia al mondo. A cosa si sono ispirati? Certo, ma è anche l'obiezione della Bundesbank, da quanto ci ha dato a capire, la quale dice: non essendo asset negoziabili su un mercato diciamo trasparente, quindi non avendo un fair value di mercato, non possono essere imputati tra gli asset patrimoniali utilizzabili ai fini di riserva e quindi ai fini di diciamo di computo degli indici patrimoniali. Questo dice la BUBA, che sta cercando sostanzialmente di rintuzzare questa mossa, questo artificio contabile, perché è una partita di giro veramente imbarazzante. Francamente non si capisce perché si voglia erodere ulteriormente la reputazione del più grande istituto di diritto pubblico che abbiamo in Italia, che ha tenuto la barra dritta sulla gestione finanziaria di questo paese per così tanti anni e che con questa operazione francamente si dimostra al contrario di essere autonomo, si dimostra molto molto asservita alla politica, mi spiace dirlo, ma l'ha detto con candore ma con rigore anche ieri Ignazio Visco, dicendo, testuali parole, l'aggiornamento del valore del capitale di Banca d'Italia corrisponde a una precisa richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ma il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è guidato da un ex membro del direttorio fino a pochissimi mesi fa della stessa Banca d'Italia, perché è la Banca d'Italia che prende ordini dal Tesoro, che evidentemente deve qualcosa alle banche, perché le banche sono uno dei maggiori attori di questa legge di stabilità, no? Oppure è la Banca d'Italia che si è presa il Tesoro e fa insieme alle banche quello che ritiene a fine di sistema essere più giusto, secondo lei? Vede Oscar, anche questo è un bel problema di conflitto di interessi. Io ho azionisti che nell'Assemblea Generale delle Banche d'Italia approvano la rivalutazione di quote di cui sono i primi beneficiari, e già questa è una cosa che griderebbe vendetta se questa Assemblea avvenisse secondo i canoni di una normale governance aziendale. La seconda cosa è che la commissione di ruoli fra Banca d'Italia e il governo è avvenuta al contrario rispetto a come si potrebbe attendere in un contesto anglosassone, dove semmai è il governo che influenza Banca d'Italia. Qui abbiamo visto un'operazione, se vuole, di OPA inversa, se vogliamo, no? Cioè una Banca d'Italia che, come appartenente all'eurosistema, di fatto ha semicommissariato la politica economica e finanziaria del governo. Quindi anche in questo un sottile conflitto di interessi, se non altro di tipo personale, non può non essere letto. E queste cose non piacciono a chi, come sottoscritto, ha a cuore il principio liberale della separazione dei ruoli, dei sistemi di controllo e della segregation of duties. Ovviamente non ci piace, perché la Banca d'Italia così si presta a un'operazione sostanzialmente di plusvalenza per le banche private e di tassazione indebita, perché la tassazione di questo 12% sulle plusvalenze votata in fretta e furia in anticipo rispetto al dispositivo che va ancora approvato, cioè non c'è ancora una legge di statuto, Banca d'Italia anticipa queste cose con il palese obiettivo di far sì che entro il 2013 maturino queste plusvalenze, che quindi siano tassabili. E lo stesso Visco ieri ha detto sarà probabilmente necessario che in caso di modifica di questa bozza di legge si debba riunire di nuovo l'Assemblea di Banca d'Italia, e quindi con un'operazione frammentata, poco trasparente, che certamente non fa onore alla straordinaria tradizione e storia di questo istituto, che è un pezzo fondamentale, al di là del suo valore patrimoniale, che è effettivamente di oltre 20 miliardi e che è una che la rende una delle banche più patrimonializzate. Meglio patrimonializzata. Allora, la fermo un secondo. Eccoci qua, tornati in diretta 16:48 primi qui dallo studio di Radio 24 in questa vigilia di Natale. Stiamo parlando di questa cosa ai miei occhi incredibile, del fatto che la Banca d'Italia ha già modificato lo statuto su un decreto legge che il Parlamento non ha ancora esaminato, e sapendo che non c'è il parere della BCE, rivalutazione delle quote, 7,5 miliardi, un meccanismo per cui le banche private, che per via dell'evoluzione del sistema si trovano ad avere nel caso di Unicredit Intesa da sole più del 60%, incasseranno miliardi che vengono dalle riserve della Banca d'Italia, cioè sono nostri, nel quadro di uno scambio, questi sono miei giudizi, di uno scambio, perché come sapete la legge di stabilità si eleva per un anno di 8,5 punti l'aliquota dell'IRES alle banche, in cambio gli si fa questo bel favore con i soldi del patrimonio pubblico, cioè con le riserve della Banca d'Italia. Non ci sono analogie in tutto il mondo nel sistema di banche centrali, si fa in fretta e furia, non si è riuscito ad avere un dibattito pubblico degno di questo nome, e adesso chiederò al professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, che è con noi e che è critico anche lui, come avete sentito, quale sia da economista, accademico e anche da professionista che poi lavora nel mondo degli intermediari finanziari, la sua impressione del fatto che il dibattito non è riuscito a decollare. Io ho letto delle opinioni sui grandi quotidiani di Bragantini, di Marcello Messori, cioè delle persone che siamo abituati, per chi segue queste vicende bancarie e finanziarie italiane, a sapere che insomma, intervengono di solito con grande libertà d'opinione, ma mi sono sembrate tutte allineate al fatto che bisogna farlo, è giusto, eccetera eccetera. Perché, professore, secondo lei? Non tutte però le opinioni sono allineate. Mi faccio dire che qualcuno ha parlato molto chiaro. Mi fa piacere ricordare un bellissimo articolo scritto da un esperto di Consob, Giovanni Siciliano, giusto, che su lavoce.info ha secondo me tenuto molto bene il punto sia sulla valutazione delle quote sia sulla natura dell'assetto azionario della Banca d'Italia, dicendo che le quote andavano al più indennizzate, quindi diciamo alle banche potevano essere restituiti degli indennizi, ma non una rivalutazione con il valore attuale dei dividendi futuri, che è di fatto un regalo, perché nessuna azienda privata ha diritto ad avere quei dividendi. La distribuzione dei dividendi è regolamentata in Banca d'Italia. Chiariamo a chi ci ascolta, non è un tecnico, gli articoli 39 e 40 del vecchio statuto disciplinavano nei limiti del 6% del vecchio capitale, no? Quello che valeva 156.000 euro, i dividendi ordinari, al più vi si poteva aggiungere un 4% sempre del vecchio capitale attingendo alle riserve, ma come capite questo era il giusto, sottolineo tre volte giusto, come vi stava dicendo il professore, modo di dare agli azionisti privati poche migliaia di euro l'anno di dividendi. Adesso con la norma del 6% del valore del capitale che sale a 7,5 miliardi, capite che diventano centinaia di milioni, cosa che è anche questa abbastanza, per me, inaccettabile. Non riesco a capire, il professor Maffè ha detto non si dovrebbero dare. È distribuzione dei diritti di signoraggio che sono appannaggio statale in tutto il mondo, cioè altrimenti stiamo privatizzando i diritti di signoraggio, tra l'altro privatizzandoli su un asset la cui liquidità, abbiamo visto prima, non è trasparente, in cui il mercato secondario non è chiaro a che titolo venga svolto. Cioè, un conto è una public company quotata sul mercato regolamentato dove abbiamo tutte le garanzie, un conto è una public company che non ha, come dire, criteri pubblici e oggettivi per presiedere gli scambi dei propri titoli. In questo senso secondo me è scorrettissimo definire una distribuzione delle quote di Banca Italia tra privati una public company. È una dispersione di rischio, se vogliamo. Io sono d'accordo, per me queste sono materie per cui uno dovrebbe salire al Quirinale se fosse un uomo politico e dire ma che sta succedendo. Però un nostro ascoltatore si chiede, ma è un caso che quel valore di 7,5 miliardi è allineato con quelli che avevano le quote più alte, cioè le banche più scassate in difficoltà patrimoniale come Carige e MPS? La domanda che ci fa il nostro Fabiano è una domanda sulla quale mi permetto di fare un sorriso. Secondo me no, però io sto rischiando nel dirlo. Abbiamo un ascoltatore, Carlo, che ci chiama da Verona. Prego, Carlo. Sì, intanto buonasera a tutti, ringrazio di avermi richiamato. Ma io sono, rispetto a chi vuole dire mi ha un attimino preceduto, sono un modestissimo docente a contratto in matematica finanziaria e diciamo mi occupo da qualche tempo di conteggi, usura, natocismo e quant'altro. Volevo intervenire perché lei giustamente, Giannino, diceva prima Banca d'Italia è un'eccellenza, eccetera, eccetera, però voglio dire, sono anni che con le direttive, le circolari della Banca d'Italia, presente sui conteggi della formula di Banca d'Italia per quanto riguarda l'usura, si va in totale dispregio di quelle che sono le norme. Abbiamo fatto una puntata su questo per spiegare come si possa fare rispetto alle medie più certi punti arrivare a tassi di interesse che a occhio uno direbbe no, queste usure invece sono leciti. No, ma diciamo sono leciti se uno la vede per quanto riguarda la formula di Banca d'Italia, ma ripeto, la Banca d'Italia non legifera, è sottoposta alla legge. La legge dice inserisco tutte le commissioni relative all'erogazione del credito, mentre la Banca d'Italia dice no, per esempio la CMS va ad essere annacquata, ma ripeto è una prassi ormai consolidata per cui nonostante le cassazioni che censurano il comportamento della Banca d'Italia si continua a procedere nel totale silenzio, nel totale menefreghismo di quello che è la legge che è sovraordinata. Quindi Carlo, lei dice, come dice giustamente da modesto esperto ma docente di matematica finanziaria, c'è una collusione col sistema bancario del regolatore. Giriamo la domanda al professor Carlo Alberto Carnevale Maffè. Secondo lei ci stiamo inoltrando su giudizi che di solito sono considerati troppo pesanti e irriguardosi verso la Banca d'Italia, ma questa collusione di fatto c'è o non c'è? Non so giudicare la collusione, ma giudico il conflitto di interessi, che è premessa di una possibile collusione. Cioè, diciamo, la collusione è l'effetto, il conflitto di interessi è la causa e quindi dobbiamo intervenire sulle cause. Certamente in questo contesto l'evoluzione verso un modello di sorveglianza europea, quindi questa auspicata, temuta, dipende dai punti di vista, unione bancaria in parte risolverà questo genere di problemi armonizzando le direttive a livello europeo, anche se questo richiederà qualche anno. Certamente piccole forme di allineamento degli interessi più che di collusione da parte del supervisore e dei supervisionati si sono verificate. Questa però è, questa è un dato strutturale, è un dato che afferisce alla governance e afferisce a Banca d'Italia come istituzione di diritto pubblico, quindi diciamo non è un tema da conto economico dei dettagli, esatto. È un tema da stato patrimoniale, e quindi ha una valenza di straordinaria importanza. In questo senso merita molto più dibattito di quanto pure meritino ovviamente le logiche diciamo sul calcolo degli interessi, sulle commissioni di massimo scoperto. Esatto. Senta, come si farà a considerare un rafforzamento quello che conta poi quando ci sono gli stress test, quando da inizio anno inizia il primo, i primi atti dell'unione bancaria, no? Come si fa a considerare nel Tier 1, cioè la parte di capitale più facilmente dismissibile e quella che le banche devono elevare per affrontare eventuali tensioni patrimoniali, i titoli, le quote proprietarie di Banca Italia, che mi sembrano un capitale molto ibrido, visto che saranno soggette a tutta una serie di limitazioni per cedere. Ma è per quello che secondo me Bundesbank ha perfettamente ragione a considerare gli asset illiquidi asset addirittura non tradable, quindi non negoziabili se non a condizioni molto specifiche, quindi non afferibili al core tier 1, perché semplicemente sostanzialmente illiquidi, cioè non dotate di un mercato effettivo, no? E quindi Bundesbank si è messa di traverso, anche se sono tutte le supposizioni, non lo sappiamo, perché pare abbiamo la Banca d'Italia che deve chiedere parere consultivo alla BCE e la BCE non ha ancora dato la luce verde, eppure Banca d'Italia si prende la libertà di procedere. Anche questo è del tutto irrituale. Fai parte di un eurosistema, stai andando verso l'unione bancaria, stai oggettivamente forzando tempi e modalità. Io fossi in qualcuno in Francoforte, lato Buba, lato, ma anche lato ECB, probabilmente qualche sopracciglio, come si dice in inglese, lo alzerei, perché è una prassi francamente non riguarda. Senta, nei toni, quando ci sono state le audizioni parlamentari, nei toni di Banca d'Italia su questo, perché hanno tentato all'inizio di dire c'è già un sì del parere, un parere del servizio legale della BCE, poi si è capito che dietro c'erano problemi, è un po' come se dicessero i tedeschi ci costringono al meccanismo del bail-in, quello per cui perderanno credito e depositanti per i banche in default, un po' come a Cipro, sopra i 100.000 euro, noi a questo punto, cari tedeschi, le nostre banche le rafforziamo anche con i soldi della Banca d'Italia. È un po' così? Beh, è una lettura legittima, anche se un po' dietrologica, un po' forzata, non lo sappiamo ancora come funziona questo bail-in. Se vuole la mia critica su quello che è stato deciso il 18 e 19 di dicembre, Oscar, gliela dico molto francamente, è un atto irresponsabile di attribuire a un single resolution board che non ha responsabilità politiche il compito in 24 ore, sia chiaro, dal venerdì al lunedì. Esatto, e su questo però ci dovremo tornare, non nella vigilia di Natale, perché l'unione bancaria sarà uno dei temi su cui per forza torneremo, un compromesso molto opaco. Intanto grazie al professor Carlo Alberto Canale Maffè. Uno scandalo questo regalo a Unicredit Intesa, questa è la mia opinione, ma intanto fate un'ottima serata di Natale e ci risentiamo venerdì.